Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 e 5 minuti di questo ultimo giorno del mese di aprile. Oggi è il 30 appunto di aprile 2012. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che questa sera, eccezionalmente, perché devo presentare una compilation che ci tengo particolarmente, ma insomma siamo qui in diretta fino alle 22 con il sottoscritto, con la vostra emittente, come piace dire a me, insomma, Blu Radio Veneto. Questa è una trasmissione nella fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, che va in onda tutte le sere dalle 21 alle 22.30 circa. Allora, i nostri dati tecnici: prima di tutto le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS vi ricordo il 346 23 20 033. Poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it, da lì potete ascoltarci in streaming in diretta 24 ore su 24, e potete anche ovviamente leggere tutte le varie informazioni, le varie notizie, le recensioni, il live, insomma tutto che può insomma interessarvi, soprattutto poi specialmente per la nostra regione, il Veneto, ma non disdegniamo anche di mettere notizie al di fuori della nostra cara amata regione. Allora, e poi ancora cosa vi devo dire? Che questa è una trasmissione particolarissima per il sottoscritto, perché c'è un progetto che sta nascendo, l'hanno presentato, anzi è già nato, l'hanno presentato il 25 di aprile, è una compilation che diciamo scuote un po' i cuori, perché va a, come dire, a sostenere la ricerca per la speranza, l'esortazione io sono un po' emozionato sulla ricerca della leucemia e anche per il sostegno per il paziente ematologico. Io, diciamo, sono un po' emozionato perché questo è un argomento che mi ha toccato moltissimo negli anni passati, quando ancora io trasmettevo in un'altra emittente. Avevo, ve lo dico in due parole, perché non voglio entrare proprio nel profondo, avevo un'ascoltatrice piccolissima, giovanissima, insomma aveva 12-13 anni, che mi ascoltava da Belluno, e aveva appunto la leucemia. Io gli sono stato nel mio piccolo vicino per quel che potevo, poi ci ha lasciato dopo 2 anni, e questa è una cosa che mi è rimasta sempre dentro. Quindi quando qualcuno, che poi sentiremo, mi ha proposto: perché non mi fai un po' di pubblicità e proponi questa compilation per questa ricerca sulla leucemia, io mi sono sentito subito parte in causa, ed è stato giusto che io fossi qui questa sera alle 21 passate da qualche minuto per farvi conoscere questa compilation chiamata L'arcobaleno della speranza. Ciao, sono Amélie e ho una cosa molto importante da dirvi. Dal 25 aprile sarà disponibile su iTunes e su tutti i portali digitali la compilation benefica Arcobaleno della speranza, realizzata da AM Productions. 13 artisti uniti per raccogliere fondi a favore dell'associazione Onlus Arcobaleno della speranza, che sostiene la lotta contro la leucemia. Partecipano con i loro brani Luana Bellucci, Alessandro Maiani, Sergio Limbo, Davide Lucchini, Amélie, Stefano Pippa, Federico Bergonzoni, Mauri, H. Bro, Alex Di Salvatore, Standby ed Erika Biavati. Se anche tu vuoi sostenere questa importante causa, puoi farlo con un semplice gesto. Acquista la compilation Arcobaleno della Speranza. Per maggiori informazioni visita il sito www.arcobalenodellasperanza.net. Insieme nella musica per dare una speranza. Ecco, avete capito di cosa stiamo parlando, di cosa parleremo questa sera, ma soprattutto parlerà chi è uno dei, diciamo, dei promotori, uno di quelli che ha organizzato un po' tutta questa cosa, e abbiamo con gioia, lo presento perché è un grande personaggio, un carissimo amico, si chiama Alessandro Maiani. Ciao Alessandro, mi stai ascoltando? Buonasera, sì, ciao. Ciao Alessandro, benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie. Io ho detto due paroline, ma è giusto che lo dici tu nella interezza, insomma, perché questo è un progetto tuo, e non solamente tuo, ma anche di Giacomo Rossi, se non sbaglio, giusto? Sì, e sì, poi... guarda, in realtà siamo un gruppo di diversi attori in questo progetto, nel senso che tutto nasce da un'idea di Giacomo Rossi, in realtà, questo è giusto dirlo. Certo. Lui, amico in prima persona di Maria Stella Marchetti, presidentessa di questa Onlus di Roma, che si chiama appunto l'Arcobaleno della Speranza, e mi ha proposto un po' di tempo fa di collaborare per aiutarla nella causa che hai spiegato bene tu prima, cioè la raccolta, diciamo, di aiuti, ma anche il sostegno morale, non solo economico, per chi sta lottando per trovare rimedi o per comunque vivere una vita dignitosa in compagnia di un brutto male che è appunto quello della leucemia. Niente, io e Giacomo ci siamo messi con le nostre capacità nel creare appunto un progetto artistico che si è concretizzato in questa compilation, nella quale sono confluiti una serie di artisti che ruotano attorno alla mia etichetta. Io sono musicista e proprietario di un'etichetta discografica, Giacomo invece fa tutt'altro lavoro e quindi per lui è una passione, per me è anche un lavoro, insomma, quindi io, siamo una coppia così assortita. Io ho contato un po' gli artisti che sono presenti in questa compilation, sì. Sono 11 se non sbaglio. Gli artisti forse un po' meno, perché no, sono 11, hai ragione, sì, perché i pezzi sono di più, ma Luana fa due pezzi, sì. Dentro ci sono due carissime amiche di questa emittente, due amiche mie, ed è Amélie e Erika Biavati, che sono già state qui a trasmettere la loro musica. Quindi mi ha fatto molto piacere sapere che ci sono anche loro all'interno di questa compilation. Ma insomma, com'è nata questa idea allora di chiamare questi artisti allora? Ma niente, l'idea è nata canzoni. Che sostanzialmente Giacomo scrisse un testo qualche anno fa, che appunto era quello che sappiamo, che ha dato il titolo alla compilation, che è anche il titolo e il nome dell'associazione di Roma, cioè l'Arcobaleno della Speranza. Ha scritto un testo, mi ha detto: Alessandro, perché non mi provi a fare una musica? Ed è nato tutto da lì. Abbiamo fatto una canzone, l'ha cantata Luana Bellucci. Esatto, Luana Bellucci. Dopodiché la cosa è, diciamo, si è fermata lì. Cioè, abbiamo fatto questa canzone e l'abbiamo messa in vendita su iTunes per raccogliere sempre fondi per l'associazione. E poi invece dall'anno scorso già, come hai detto, ma perché non facciamo qualcosa di più grosso? A me è venuta questa idea di raccogliere gli artisti che bene o male ruotano intorno alla mia etichetta discografica. Ho chiesto chi fosse interessato a partecipare donando una canzone alla compilation, e il risultato è quello che hai per le mani. Sì, io ho ascoltato la compilation, te lo dirò in maniera sincera, l'ho ascoltata con un altro modo di ascoltare la musica, proprio per sapendo cosa c'è alle spalle, e in qualche canzone mi sono anche un po' emozionato. Poi magari ne parleremo anche con Amélie, se dopo ci sentiremo. Sì. Ci sono ogni artista c'è una varia motivazione perché ha scelto determinate canzoni, e quindi ascoltare questi brani, che poi tra l'altro lo tengo anche a sottolineare, a dire, non sono tutti in italiano, attenzione, ma sì, ce ne sono anche in inglese, ci sono gli Stand By, che tu ne sai qualcosa, sì, vero? Our Love Will Never Die e Amélie appunto con Just For You, ma poi ne parlerà lei, e poi ci sono le canzoni in italiano. Io, se tu sei d'accordo, Alessandro, vorrei far sentire il vostro inno, tra virgolette, chiamiamolo così, sì, passimi questa espressione, di questa canzone, che è da lì è nato tutto, insomma, il progetto, che si chiama appunto L'Arcobaleno della Speranza, nella voce di Luana Bellucci. Magari ci sta ascoltando, chi lo sa, io la saluto caramente. Direi proprio di sì, perché è stata informata e credo proprio sia in ascolto, o in streaming o in diretta. E allora Luana, un bacione grande, un abbraccio grande, ascoltiamo dalla voce di Luana Bellucci L'Arcobaleno della Speranza, e poi ritorniamo con Alessandro. Smettila di dire, questa vita non fa per me. Copri quello specchio, quello che vedi riflesso, non sei più tu, come una magra malattia. È la sfortuna che sembra non voglia andarsene via. Dai, dai, dai, so che ce la farai. Dai, dai, dai, non desistere mai. per me. Dopo il temporale cerchi nel cielo la serenità e un arcobaleno ti dà speranza, lottare è servito e la sfortuna non c'entra più. Contro il tuo male, quello che conta sei solo tu. Salta insieme a noi. Dai, dai, dai. Urla più che puoi per dare voce alla speranza di chi ancora è in sofferenza. Per dare voce all'esistenza di chi spera e sogna. Grazie a te. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Alessandro, ci sei? Eccoci. Eccoci qua. Questo è un inno, come dite voi nella presentazione, alla speranza, un'esortazione a non smettere mai di lottare seguendo l'esempio di Maria Stella, prima musa ispiratrice di quel brano. Belle queste parole. L'avete scritto voi? Sì, è autore del testo, come dicevo prima, Giacomo Rossi. Io ho scritto la musica. È stato un progetto nato proprio con questo intento, cioè proprio volevate proprio fare questa cosa, questa ricerca, cioè questa donazione alla ricerca per la leucemia, insomma. Sì, assolutamente, anzi ti dirò di più, noi volevamo fare anche di più, nel senso che abbiamo come spesso si fa, pensato molto in grande e poi cercato di fare quello che si poteva effettivamente fare, cioè realizzare una compilation e chiedere agli artisti di partecipare, e hanno aderito con un entusiasmo sinceramente bello, veramente molto molto rassicurante, e quindi li ringrazio anche tutti pubblicamente l'ennesima volta, perché l'abbiamo già fatto più volte, e grazie a loro soprattutto siamo riusciti a farlo. Abbiamo fatto questo evento, come hai detto tu, il 25 di aprile qui a Bologna, e cerchiamo adesso di farne altri sempre più grandi, con sempre più risonanza per i mass media se si può, e quindi grazie anche alle radio come la vostra che ci danno spazi, e niente, proviamo a fare sempre di più. Vogliamo ricordare, Alessandro, chi sono questi musicisti? Li ricordi tu? Sì. Li ricordo io? No, io me li dovrei ricordare tutti. Allora vai pure, vai pure. L'ultimo mese ho lavorato molto per questa cosa. I musicisti, vabbè, apre la compilation, come abbiamo appena sentito, Luana Bellucci, che è presente come cantante del brano che dà il titolo a tutto il progetto, più un altro brano che è tratto dal suo EP. Poi c'è Davide Lucchini, con Ovunque Andrai, poi c'è Amelie, poi c'è Stefano Pippa, poi c'è Federico Bergonzoni, poi c'è Mauri, gli Stand By, Age Bro, poi ci sono io con un altro brano sempre scritto da Giacomo Rossi, Erika Biavati, e me ne sto scordando qualcuno, Sergio Limbo, assolutamente Sergio Limbo, tra l'altro è anche l'artista che sto promuovendo in questo momento, quindi mi picchia se non lo dico. E ti manca Alex Di Salvatore. È Alex Di Salvatore, che è un altro che mi picchia pure lui, ecco, perché anche lui ha detto in promozione. Che saluto chiaramente, perché ci siamo sentiti un paio di giorni fa tramite Facebook. Bene, no, infatti tra l'altro spero di riuscire a insomma portarti qualcuno anche di questi artisti nella volentieri loro veste. Album, diciamo. Io se mi consenti, prima di continuare con la chiacchierata, volevo dire una cosa a questi tanti artisti che questa sera non riuscirò a farli sentire tutti, quindi mi scuserete perché il tempo è quello che è, ma insomma qualcuno lo facciamo ascoltare, e quelli che non verranno ascoltati magari li metteremo nella programmazione, vedremo di farli sentire durante il giorno in altri orari, insomma, quindi mi scuso con quelli che non riesco a far sentire, ma insomma l'importante è il progetto e lo scopo di questo progetto, questo l'arcobaleno. A tal proposito, se mi consenti tu, vorrei dire dove si può trovare questo CD, certo, perché è una cosa abbastanza, diciamo, difficile, nel senso che ovviamente non lo trovate nei grandi negozi di distribuzione, purtroppo, perché ci piacerebbe metterlo, ma non è così semplice. La compilation è acquistabile sia ovviamente alle serate, alle giornate che organizziamo, quindi se vi collegate sui siti l'arcobaleno della speranza, anzi arcobalenodellasperanza.net se non sbaglio, correggimi se hai sotto qualcosa perché non vorrei sbagliare, .net o .org. E comunque dal sito www.amproductions.it arrivate dappertutto, e da lì si può accedere appunto anche al sito dell'Arcobaleno, e si può quindi acquistare ordinandolo direttamente a noi, oppure presenziando queste iniziative, o andando su iTunes, che è la piattaforma Apple adesso ormai famosissima, acquistandolo anche in formato digitale, quindi non sul CD ma per iPod, iPad e cose varie, insomma. Allora, ti correggo se non ho capito male quello che hai detto. Sì. Allora, la mail è info@arcobalenodellasperanza.com. Esatto. .com. Bene, era l'unico che non avevamo detto. Comunque cercate Arcobaleno della Speranza su Google e lo trovate senza problemi, sicuramente. Certo. Senti Alessandro, spendiamo due parole sul concerto che avete tenuto il 25 aprile. Com'è andata? È andata bene, anche questa è andata meglio di quello che ci aspettavamo, perché intanto il meteo è stato dalla nostra parte, perché sono stati periodi burrascosi dal punto di vista meteorologico e il sole è venuto proprio con l'arcobaleno. Che bello. Abbiamo avuto una giornata meravigliosa, il concerto è partito alle 2 del pomeriggio, quindi abbiamo fatto proprio una maratona fino a sera con tutti gli artisti. È andata bene, c'è stato un sacco di gente che ha conosciuto l'iniziativa, gente che già la conosceva, siamo stati tutti molto molto felici. E quindi è riuscito perfettamente, insomma. Direi proprio. Avete già venduto parecchi CD? Sì, durante la prima giornata, non ti dico che sono andati via tutti quelli della prima stampa, ma quasi, quindi è una cosa già molto bella poter cominciare a pensare a una ristampa del CD. Certo. E stiamo pianificando già altri eventi, quindi comunque insomma sembra che l'iniziativa, al di là della soddisfazione personale, stia dando anche qualche frutto concreto a chi sta lavorando per cercare sempre nuove soluzioni. Certo. Va bene Alessandro, io direi di chiudere qui la chiacchierata con te, per lasciare lo spazio poi anche, volevo chiamare la Melì, insomma volevo chiamare anche lei per sentire le sue emozioni salendo su quel palco di mercoledì scorso. Io veramente ti ringrazio di cuore, grazie per avermi fatto partecipe di questa cosa, perché mi ha preso veramente nel cuore. Appunto, come dicevo prima, per quello che ho passato negli anni addietro con un'ascoltatrice, sapere che c'è questa ricerca tramite la musica fa sempre veramente molto ma molto piacere. Io, guarda, se vi può interessare, io ci sono sempre per voi. Io ti ringrazio a nome mio e a nome soprattutto anche di Maria Stella, che è appunto la nostra musa ispiratrice, ed è colei che ci fa anche lottare, nel senso che lei in prima persona purtroppo è coinvolta in questo dramma, ma proprio per questo ci fa capire quanto la speranza e la voglia di lottare siano le cose più importanti per, certo, per riuscirci, e quindi noi cerchiamo appunto di dare il nostro contributo, e grazie anche a persone come te riusciamo a farlo. Io ti ringrazio di cuore, salutami anche il resto dell'organizzazione, se si può chiamare così, certo, appunto, certo. Maria Stella, Giacomo, certo. Rossi, eccetera, e quant'altro, e tutti i vari artisti ovviamente che hanno partecipato a questa compilation. Io ti saluto con una canzone che penso ti riguardi, perché ho scelto, non è la tua, proprio tua, ho scelto quella con il gruppo, cioè Stand By. Sì, sono io comunque, lo so, sono dentro. Non è quella proprio il tuo nome, ma è quella con il tuo gruppo, Our Love Will Never Die. Il nostro grazie. Amore deve essere, non è mai ucciso. Non finirà mai. Benissimo. E allora, Alessandro, grazie di cuore di aver partecipato a questa sera. Grazie per la grazie. Compilation. E in bocca al lupo grazie. Per questo sostegno a questa ricerca. D'accordo? Grazie mille. Ciao, Alessandro. Ciao. Turn down along the night, feels dark. There's nothing wrong, just growing old. There's no reason why. Radio Sera. Blu Radio Sera. decisamente, come si può dire, una compilation dal sapore particolare, dall'ascolto particolare. Quando si ascoltano certe canzoni sapendo l'intento, fa veramente venire un po' di tristezza, soprattutto per le persone che sono malate, ma dà anche dall'altra parte la forza per lottare, per continuare e sostenere appunto questi pazienti che sono in fin di vita praticamente e sono destinati magari spesso e volentieri anche a salire in cielo. Allora, come dire, io sono rimasto sorpreso quando mi hanno proposto, come dicevo all'inizio, questa compilation, perché leggendo i nomi appunto di chi c'era dentro ho trovato che c'era un artista al quale io sono molto legato, non solamente dal punto di vista musicale ma anche affettivo, ed è Amélie. Ci sei? Sì, io sono qua. Tu sei... ci sono, ciao Ago. Ciao bella, come stai? Bene, bene, volevo ringraziarti per questo spazio che stai dando alla compilation, perché è molto molto importante, quindi veramente grazie di cuore. Beh, insomma, l'intento di Alessandro e del resto dell'organizzazione è grande, è un grandissimo impegno. E quindi è un progetto che mi è piaciuto subito, e quando tu me l'hai proposto, insomma, cioè proposto, me l'hai portato alla conoscenza, insomma, io mi sono sentito parte in causa, come dicevo ad Alessandro poc'anzi, insomma. Sì, è un progetto veramente bello, anche perché ascoltando la compilation ti rendi conto che i pezzi che sono poi stati inseriti sono veramente profondi, molto belli, sì. Per cui anche la qualità artistica è sicuramente buona, e l'obiettivo che, appunto, come diceva Alessandro, che si vuole raggiungere, quello di proprio di regalare emozioni, di regalare una speranza a tutti coloro che stanno lottando, perché come dicevi tu ci sono persone che salgono in cielo e ci sono persone che però ce la fanno, come Maria Stella Marchetti, che come diceva Alessandro è la musa ispiratrice di questo progetto, che ce l'ha fatta e che adesso dedica veramente un sacco del suo tempo a questa associazione meravigliosa dell'Arcobaleno della Speranza. Ed è una gran cosa, perché prima di tutto bisogna essere sensibili nell'animo, credo. Sì, assolutamente. Per fare queste cose, insomma, bisogna essere, come dire, umani. Ecco, forse la parola giusta è proprio quella. Non avere egoismo, non avere cioè avere solamente altruismo, insomma, e pensare alle persone, ad aiutarle, cercare di essere vicino in questi momenti, insomma, che sono come ti dicevo prima, io ho avuto questa esperienza una domenica pomeriggio con questa ragazza e guarda, ti dico, sono rimasto toccato per la vita. E sì, che sono passati tanti anni, però insomma dagli anche solo un sorriso, dagli un pupazzetto, in questo caso come ho fatto io, insomma abbiamo regalato dei momenti splendidi per la vita di queste persone, insomma, è solo quello che loro cercano, e questa compilation, se noi la regaliamo anche a loro, penso faccia molto piacere, insomma. Sì, assolutamente. Poi comunque la musica veramente unisce, sì, davvero, la musica unisce le persone, può far nascere tante belle emozioni, anche tante collaborazioni, per poi alla fine, insomma, anche in questa occasione io ho conosciuto persone splendide grazie a questa cosa, anche altri artisti molto bravi, quindi è una cosa che ti porta a tante belle cose, non a una sola, quindi è una cosa bella dalla quale nascono altre mille cose belle, e il tutto per aiutare le persone che soffrono, quindi credo sia una cosa veramente molto molto veramente bella. Ma infatti io leggevo qui nella presentazione, qui c'è scritto quanto la musica sia oggi come da sempre catalizzatrice di emozioni, potentissimo collante che unisce le persone in un ideale. Sono parole veramente molto belle che stanno a significare proprio la profondità di questa cosa, di questo progetto. Questo mi fa veramente molto ma molto piacere. Io direi, Paola, siamo qui anche per far ascoltare la musica, giusto? Io direi di far ascoltare un'altra canzone e poi magari torniamo in studio e mi racconti un po' com'è andato il 25 aprile al concerto, cosa hai provato salendo su quel palco. Volentieri. Va bene. Io scelgo, ma come dicevo prima, scelgo un po' così, a caso, tra virgolette, scelgo un po' per i gusti miei, un po' per così, insomma, non offendetevi, come dicevo ad Alessandro prima, gli artisti che non vi faccio ascoltare. Scelgo la traccia numero 2, questo Treno per Marte, cantata da Sergio Limbo. Scusi, sa quando parte il treno per Marte, che ho bisogno di una vacanza. No, che non scherzo, vengo giù da Faenza e ne ho abbastanza. La fuga all'estero dei bidelli, il riscaldamento centrale, l'eterna lotta del bene contro il sale. mio Dio, ma che razza di mondo, io non credo più ai miei occhi. Confessa ragazzo, tu di notte ti fotoritocchi. No, non ci si può fidare di questi giovani d'oggi e di me, che sono un sognatore. E con questi aggeggi nuovi ci si parla e non si legge più. Ma tu, quest'anno al mare voglio andare su Giove, sempre se non piove, vedere un mondo senza le persone non può farmi che bene. Cantanti, filosofi, comici, santi, il giovane che si oppone, io sono talmente contro che sono a favore. Osteria numero zero, metterò il vestito nero per il funerale del pensiero. No, non ci si può fidare questi giovani d'oggi e di me, che sono un vecchio attore. E con questi aggetti strani ci si salva e non si esce più. Ma tu non fidarti dei discorsi brillanti, dei completi sgargianti, degli occhiali, degli intellettuali. No, non ci si può fidare di questi giovani d'oggi e di me, che sono un truffatore. E con questi aggeggi nuovi ci si parla e non si legge più. Ma tu, sorridenti e cantano canzoni che non dicono niente. Salvami dai loro tramonti, da quelle rime da bambino, hanno più deviazioni di un centralino. No, non ci si può fidare, le cover band mi uccidono di più, sono tutti troppo belli. Tu ti devi accontentare di questa faccia che conosci già, piena di segni dell'età. Scusi, sa quando parte il treno per Marte, che ho bisogno di una vacanza. Blu Radio Sera. Amelie, ci sei? Ci sono. Ci sei. Allora, io ti leggo delle parole che ha scritto Maria Stella sulla tua bacheca di Facebook, che mi hanno colpito. E dice, dai, davvero? Sì, dice: solo chi ha l'arcobaleno nel cuore può vivere certe emozioni, e quelle che mi avete fatto provare voi ieri sono indescrivibili. La cosa più bella è stata cantare le canzoni che abbiamo dedicato a chi ha lottato contro questo male, a squarciagola fino a farle arrivare in paradiso. Grazie. Sì, bellissimo. Bellissimo. Leggevo adesso, guarda, stavo curiosando da te e così mi sono trovato queste parole, mi hanno colpito, veramente. Grande, sì, grande. No, ma lei ha veramente una sensibilità unica. Infatti un'altra cosa di cui ti volevo parlare è il libro, per esempio, del Scoprino della Speranza. Maria Stella Marchetti ha pubblicato questo libricino dove ha raccolto, diciamo, dei pensieri suoi e di altri, diciamo, pazienti. Sono una serie di stornelli, di barzellette, persino di racconti del periodo, diciamo, in cui questi pazienti sono stati costretti a vivere questa esperienza. E leggendo anche questo libro ti si apre veramente un mondo, cioè capisci tante cose alle quali magari giustamente durante la giornata non pensi, cose che magari non sottovaluti, non una cosa a cui non dai importanza, perché ti rendi conto che chi vive queste esperienze veramente poi assume un punto di vista sulla vita completamente diverso e coglie veramente le emozioni forse proprio anche in maniera diversa. Certo. È una serata di emozioni questa sera, vero? Ti ho sentito che prima ti tremava la voce. Sì, in effetti ho perso un po' della mia sicurezza stasera, ma cosa no, vuoi, sono cose che toccano, quindi insomma, vabbè, ma però mi fa molto piacere. Senti Paola, io ti volevo chiedere, cosa hai provato a salire nel palco? Cioè, trovarti lì per questo scopo, insomma. Ma è stata veramente un'emozione molto grande, nel senso che, vabbè, chi fa questo, la musica di lavoro, ti dico, è abituato a sedere sul palco, a tenere il palco, eccetera, però in quell'occasione è stato proprio diverso. Uno, perché l'obiettivo che volevi raggiungere era ovviamente diverso da quello solito. È vero che di fondo ci deve essere sempre un'emozione che deve arrivare al pubblico. In questa volta la canzone io l'ho cantata proprio pensando, a parte ad una persona in particolare, però proprio pensando al perché, al per chi stavo cantando quella canzone in quel momento. Quindi è stata un'emozione veramente unica, profondissima, e spero di aver regalato al pubblico che mi stava ascoltando le emozioni che ho provato io stando sul palco. Ed è stata un'emozione anche ascoltare gli altri artisti, perché, ripeto, li ho trovati tutti veramente bravissimi, per cui mi sono emozionata a sentire anche tutti gli altri, ad ascoltare le canzoni. Alcune non le avevo sentite, le ho sentite lì per la prima volta, quindi è stato proprio bello, proprio una bellissima esperienza. Certo, io mi voglio collegare subito alle tue parole, perché adesso ho scelto la tua canzone, al quale sono legato anch'io, perché mi piace, insomma, in sé, ma so che tu l'hai cantata, proposta per una persona a te molto cara. Sì, io fondamentalmente ce ne parli? Sì, volentieri, grazie. Io ho deciso di aderire a questo progetto, oltre appunto per la causa meravigliosa che si pone di sostenere, anche proprio per ricordare il mio carissimo amico Alessio Garufi, che è il compositore di questo brano. Just For You è stata scritta da Alessio per quanto riguarda la parte musicale e per quanto riguarda le parole da Michelina Di Martino. Il mio incontro con Alessio è stato per me importante, perché lui ha scritto questa canzone, ha composto questa canzone e mi ha contattata direttamente dicendo: questa canzone la devi cantare tu. Io non lo conoscevo, non sapevo chi fosse, per cui all'inizio ho detto: aspetta un attimo, di cosa stiamo parlando, fammi sentire. E da lì poi è proprio nata una scintilla artistica, umana tra me e lui, perché oltre a diventare poi collaboratori musicali sul progetto Amélie, siamo diventati grandi amici. E Alessio, di punto in bianco, un anno fa si è ammalato di leucemia, ha lottato con tutte le sue forze, perché era una persona strapositiva, sorridente, con un senso dell'ironia veramente fortissimo, e anche se stava male lui, era sempre lui a incoraggiare gli altri, e purtroppo Alessio non ce l'ha fatta, quindi la prima cosa che ho pensato quando lui è scomparso, ovviamente stai male, perché stai male, però ho detto: io devo fare qualcosa per ricordare Alessio, perché comunque mi ha dato tanto e voglio proprio fare qualcosa per fare conoscere questa canzone e per donare questa canzone a coloro che stanno proprio sperando, ecco, lottando. La vogliamo ascoltare questa canzone? Volentieri. E poi torniamo in studio. Just For You, Amélie. They sing and hear now. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:47 di questo lunedì 30 aprile 2012 con Agostino Spolavoro eccezionalmente per presentare questo progetto al quale veramente mi ha preso il cuore, e cioè l'Arcobaleno della Speranza. Vi ricordo che è anche un sito internet, cioè www.arcobalenodellasperanza.com, e come leggevo qui nel gruppo aperto che trovate su Facebook, dice: il sito è un mezzo di comunicazione indispensabile, particolarmente utile per poter interagire con i pazienti, dando loro un piccolo sostegno da parte di tutti coloro che sentono la necessità di dare il loro apporto, anche solo morale, a chi ne sente bisogno. Ma il portale è anche utile per pubblicizzare le iniziative dell'associazione, per riportare i risultati e gli obiettivi raggiunti, e soprattutto coinvolgere e sensibilizzare all'altruismo e al volontariato. Ameli, ci sei? Sì, sono qua. Bellissima questa canzone, come sempre. Questa è una che fa parte del tuo disco, del tuo che sei venuta a presentare tempo fa, insomma. Sì, guarda, ti dico che ogni volta che la risento per me è veramente una grande emozione. Ricantarla il 25 aprile per questa occasione è stata un'emozione ancora più grande. Quindi sono veramente contenta di aver aderito a questo progetto, e ringrazio tra l'altro la M Productions per avermi accolto, perché praticamente io sono l'unica artista che non fa parte, diciamo, di questa etichetta discografica, per cui veramente un grazie ad Alessandro Maiani, che ha accettato e ha accolto assolutamente a braccia aperte questo pezzo, e per me quindi partecipare è veramente stato molto importante. Immagino, anche perché penso tu abbia aderito subito, immediatamente, insomma. Sì, appena me l'hanno chiesto io subito mi sono messa in contatto con Alessandro, lui è stato gentilissimo, quindi 448 abbiamo deciso tutto. E anche quando mi hanno chiesto di appunto andare il 25 di aprile, ovviamente ho accettato con immenso piacere. Io sono curioso, Amelie, voglio sapere, dietro le quinte com'era la situazione il 25 aprile? Ma dietro le quinte tra di voi artisti, intendo, eravamo tutti molto diciamo tranquilli, nel senso che era uno spazio all'aperto, quindi c'era gente sdraiata sul parco, sul prato, gente che si beveva la bibita fresca, perché era una giornata veramente stupenda, fino al giorno prima pioveva, tempaccio, è arrivato il 25 aprile con l'arcobaleno della speranza, come diceva Alessandro, è arrivato il sole. E quindi c'era una situazione molto molto familiare, molto bella, quindi sembrava un po' di essere nell'Eden, non so, io avevo un po' questa sensazione, no? Di essere in una specie di Eden all'aperto, pieno di, insomma, verde, fiori, e quindi, insomma, è stato anche molto bello. Poi dopo abbiamo cenato anche tutti insieme, non abbiamo magari avuto l'occasione tra di noi artisti di pararci tutti, però comunque sicuramente si è creato un bel clima. E tra l'altro una cosa che mi ha fatto molto piacere, il giorno dopo quando sono arrivata a casa mi sono trovata una mail di uno degli artisti che ha partecipato a questo progetto, che insomma si complimentava, era anche lui felice di queste emozioni provate in questa occasione. Quindi leggere queste mail mi ha aperto ancora di più il cuore, veramente. Immagino. Beh, credo sia stato un momento molto, molto emozionante anche questa, quella giornata. Vuoi per lo scopo, insomma, vuoi anche per conoscere queste nuove persone tra di voi, insomma, credo sia stato veramente molto, molto emozionante. Questo è il discorso che facevamo prima, cioè la musica unisce. Sì, sì, credo anch'io. Sai, a volte io devo dire una cosa, a volte magari vedi alcuni artisti che sono giustamente concentrati su se stessi e non vedono null'altro. Certo. Però è bello anche a volte aprirsi un pochino e condividere le cose belle che si hanno anche con gli altri, anche proprio tra artisti stessi. Io penso che la competizione sia una cosa che non porta a nulla, se non a cose negative. Ci deve essere collaborazione, appoggio, e va condivisa la musica, per cui non bisogna creare muri, non bisogna creare barriere, ma bisogna creare veramente insieme, per prendere una citazione, un vero e proprio arcobaleno, i colori della musica, perché poi ognuno ha il suo genere, ha i suoi pezzi, ha il suo progetto, però tutti insieme possiamo veramente colorare un arcobaleno splendido. E lo so, però non sempre è così, e lo sai meglio di me, tu che sei all'interno di questo mondo. Giusto? Lo so, però devo dire che ultimamente ho avuto la fortuna di conoscere tanti artisti molto altruisti e molto aperti al confronto, alla collaborazione, quindi grazie al cielo, insomma, esistono anche tanti musicisti, tanti artisti che vedono al di là della propria casettina, ecco. Certo, certo. Io direi di far ascoltare ancora una canzone e poi ci salutiamo, va bene Malin? Perfetto. Ho scelto quella di Davide Lucchini, Ovunque. Bella. Ovunque andrai. Che questa notte abbia un senso, me lo dici sempre tu, abbiamo perso fiducia nei sorrisi alla architetture lontane ci portano verso nuove strategie. Questo rumore assordante oramai non ci fa dormire più. Ovunque andrai sarò con te, fuori dalle distanze. Ovunque andrai sarò con te, nel tuo lento discorrere. Ovunque sarò con te, al di là dei venti, delle apparenze. Che questa notte abbia un senso, me lo dico sempre, ma cambiare punto di vista vuole dire vivere. Avremo parole pesanti per dire addio, le più leggere per salutare un nuovo giorno, salutare un nuovo giorno. Ovunque andrai sarò con te, fuori dalle distanze. Ovunque andrai sarò con te, nel tuo lento discorrere. Ovunque andrai sarò con te, al di là dei venti, delle apparenze. Serenate di paese non c'è. ci fanno uscire più. Questa notte senza stelle sembra non finire. Serenate di paese non ci fanno uscire più. Questa notte senza stelle sembra non finire. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:57, Amelie, abbiamo quasi finito, l'ora è già passata. Mannaggia. Passa in fretta. Io volevo fare tutta la compilation, ma è quasi praticamente impossibile, insomma. Sì. Sono tantissimi, anzi tu li sai a memoria? Certo, li ho imparati tutti, allora. Luana Bellucci, Sergio Limbo, Davide Lucchini, Stefano Pippa, Federico Bergonzoni, Mauri, Accabrò, Alex Di Salvatore, Stembai, Erika Biavati, Alessandro Maiani con Silvio Pola e la sottoscritta Amelie. Ecco, questa è il cast, diciamo così, della compilation L'Arcobaleno della Speranza. Vogliamo ricordare tutti i vari dati, Amelie, lascio a te tutto quanto il compito. Dunque, il sito dell'associazione è www.arcobalenodellasperanza.net o .com, lo trovate sotto entrambi. Per richiedere la compilation in versione, diciamo, CD fisico, basta mandare una mail a info@arcobalenodellasperanza.com oppure è acquistabile e scaricabile da iTunes. Quindi basta veramente un piccolissimo gesto da parte degli ascoltatori, da parte degli appassionati di musica per regalare una speranza, quindi veramente con poco si può dare una piccola mano alle persone che stanno lottando contro questo male terribile. E che questa compilation è stata fatta proprio per queste cose, insomma. Assolutamente, tutti i fondi che verranno raccolti verranno dati proprio all'associazione Arcobaleno della Speranza, che come dicevi tu si occupa proprio di sostenere la lotta contro la leucemia a 360 gradi, perché per esempio si occupano di usare i fondi raccolti per comprare dei macchinari da donare alle strutture sanitarie che ne necessitano, o comunque sostenere a livello psicologico i pazienti, e facendo poi tante iniziative che troverete direttamente poi sul sito. Certo. Bene, è stata una serata emozionantissima, almeno per quanto mi riguarda, sì, Amelie. Sì. Vuoi sì. Perché parte in causa, vuoi perché anche la serata è un po' così il tema della serata, però io vi faccio veramente a te e a tutto il resto del cast e anche agli organizzatori e a tutti quanti, insomma, un in bocca al lupo per una grande riuscita di questo progetto, che spero si allarghi, come diceva Alessandro prima, si allarghi ancora di più e facciano altri eventi, magari anche qui a Padova ci verrei più che volentieri, anzi sarò anche vostro ospite se vi vorrete. Insomma, mi autoinvito. Magari, sì, assolutamente, sai che sei sempre il benvenuto. Grazie Amelie. Allora, noi ci salutiamo, ti ringraziamo. Grazie veramente per aver dedicato quest'ora a questa importante iniziativa, veramente. Blu Radio Veneto è stata onorata, io per primo, di fare questa cosa, insomma. Io vi saluto con l'ultima canzone, ci salutiamo Amelie con l'ultima canzone. Ho scelto un personaggio che ci siamo sentiti, come dicevo prima, questi giorni, cioè Alex Di Salvatore, con secondo me una canzone che dà un buon auspicio, quando il tempo verrà. Sì, e un bacio. Lo facciamo che sia un desiderio per tutti, quando il tempo verrà, che speriamo che sia bello. Un grazie ancora a tutta l'associazione, l'Arcobaleno della Speranza, mi raccomando, seguitelo e aiutatelo. Ciao Amelie. ciao. Ciao, ciao. Quando John Lewis e Rocky Francis marcheggiano, salirono sul ring, gli occhi negli occhi. L'America ci guarda, l'America scommette sull'uomo che sale, l'uomo che scende. Dai campi di cotone ai pascoli d'Abruzzo, la gloria che passa sui tetti del mondo, l'ho conosciuta, ma se n'è andata già. Dimmi allora l'effetto che fa. Sapore ha. Quando Joe aprì la guardia, Rocky Francis affondò, zuffe di strada e guantoni strappati nel fianco scoperto del campione di ieri. Poi in parte, pianse un po', troviamo qua. sicuri la sera. La sera a Bologna, qualcuno ci crede davvero. La maggior parte lo sogna, ma nessuno per questo ha smesso di uscire. C'è qualcosa là sotto quei portici scuri, qualcosa che ti fa davvero sentire protetta dal mondo impazzito e dalle tue paure. E San Luca continua a vegliare dall'alto senza intervenire, in aiuto di donne indifese, sempre poco sicure. Passo in via Indipendenza, qualcuno mi osserva, inquietudine assurda, alienante mi turba. Piazza Verdi la sera, dura da attraversare, il dottor Balanzone rimane a guardare. Sarà la voglia che abbiamo di cambiare per vivere, noi che abbiamo creduto in qualcuno, qualcosa chissà. Bologna, non ti conosco più. Se tu cambi ti odio, se non cambi mi annoio. Adesso pensaci un poco tu. Sono stanca e mi fermo da sola a guardare come sei bella al mattino, quando il sole ti viene a svegliare. Bologna, sei come un vecchio in pensione, senza niente da fare, eppure sempre più indaffarata per farti notare. Aperitivi di classe fino a tarda notte, le amiche un po' allegre sembrano disinvolte, però sotto casa la notte più scura. Sono stanca di vivere con questa paura. Sarà la voglia che abbiamo di cambiare per vivere, noi che abbiamo creduto in qualcuno, qualcosa chissà. Bologna, non ti conosco più. Se tu cambi ti odio, se non cambi mi annoio. Adesso pensaci un poco tu. Sono stanca, voglio solo aspettare che il sole ti venga a svegliare. Voglio solo aspettare che il sole del mattino ti venga a risvegliare.